Letture di Radio 24. L'Europa è una macchina poderosa ma senza anima, incapace di produrre miti unificanti. Scrive Giuliano da Empoli sull'ultimo numero del magazine Il. E gli unici soggetti che oggi producono cultura in Europa sono Marine Le Pen e Matteo Salvini da una parte e Tsipras e Podemos dall'altra. L'Europa, per come la conosciamo, è una formidabile costruzione fondata sulla razionalità diurna. Il più grande edificio politico mai realizzato in tempi di pace, in punta di diritto, tra gli uffici squallidi del vecchio Berlimont foderato di amianto e le cancellerie malinconiche di antiche potenze ridotte al rango di parchi a tema. Un miracolo di visione che ha camminato per decenni sulle spalle di uomini vestiti di grigio e di marrone, che costruivano poco a poco l'Unione a furia di direttive sulla pesca sportiva e di regolamenti sui fermenti lattici. Erano tutt'altro che sprovveduti gli uomini e le donne che hanno intessuto la trama sempre più fitta degli interessi burocratici comuni. Parlavano il linguaggio diurno della tecnocrazia, perché era l'unico che conoscevano, ma anche perché sapevano che l'altro, quello notturno dei sogni e delle passioni, rischiava di risvegliare i vecchi fantasmi europei. Le culture, le identità e le nazioni che già troppe volte avevano condotto i popoli alla guerra e il continente alla rovina. Il risultato l'abbiamo sotto gli occhi. Una macchina poderosa ma senza anima, che si inceppa a ogni imprevisto come il solito elefante dei cartoni animati messo in fuga dal topolino, che si tratti della Grecia o della crisi dei rifugiati. Laddove a colpire non è tanto, o non solo, l'ignavia dei governanti, quanto l'indifferenza dei popoli. A questa Europa non vuole bene proprio nessuno, neppure la generazione cresciuta a colpi di Interrail e di EasyJet, dalla quale pure sarebbe stato legittimo aspettarsi una punta di gratitudine in più. Si fa presto a dare la colpa ai politici e ai tecnocrati, ma la verità è che il deficit emotivo della costruzione europea non è imputabile solo a loro. Al contrario, lo si è detto, quelli, tutto sommato, avevano le loro buone ragioni per tenersi alla larga dalla dimensione notturna. Bene o male, ciò che dovevano fare l'hanno fatto. Chi ha mancato l'appuntamento con il grandioso processo dell'integrazione europea non sono i politici e i burocrati, sono in primo luogo gli scrittori e i registi, gli artisti e i creatori, tutti quelli che in questi anni avrebbero potuto partecipare alla più grande avventura collettiva del nostro tempo, costruendo una cultura europea contemporanea e popolare, e hanno invece scelto di guardarsi l'ombelico, di dare la caccia alle sovvenzioni e di crogiolarsi nella depressione. Il risultato è che l'unica cultura europea esistente oggi è archeologia o trash purissimo. Poco importa, direte voi. In fondo l'Europa è soprattutto questo. Varietà irriducibile di differenze che non si lasciano livellare. Elitismo di chi ha alle spalle una civiltà millenaria. Critica delle derive estreme del consumismo. Tutte cose che rendono difficile produrre una cultura pop degna di questo nome. L'unico problema è che chi non riesce a produrre pop è condannato al populismo. Se la cultura europea non riesce a produrre miti unificanti sui quali fondare una comunità che vada al di là della semplice razionalità diurna, gli istinti tribali sono destinati a riemergere non appena sopraggiunge il crepuscolo. Tra il vuoto pneumatico dei dibattiti tra premi Nobel sull'identità europea e le droghe pesanti delle vecchie appartenenze etniche e nazionali, non è difficile intuire chi sia votato a prevalere in tempi di crisi. Gli unici soggetti politici che producono cultura oggi in Europa sono Marine Le Pen e Matteo Salvini da una parte e Alexis Tsipras e Podemos dall'altra. Le loro sono battaglie culturali condotte con argomenti retrogradi e grossolani, ma hanno il vantaggio di contrapporsi all'aria fritta di una retorica europeista senza anima. Anziché firmare appelli contro il razzismo e i nuovi fascismi, gli intellettuali europei dovrebbero darsi da fare per articolare il linguaggio notturno, emotivo e spettacolare, dell'integrazione continentale. È ciò di cui avrebbe bisogno l'Europa. Qualche serie TV fatta bene in più e qualche dibattito sul multilateralismo in meno. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dell'articolo di Giuliano da Empoli, Date l'Europa a Hollywood, dal numero di settembre del magazine Il. Vorrei un'Europa più compromessa, più sociale e con più senso dell'umorismo. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Letture di Radio 24. Il 7 settembre di 10 anni fa moriva Sergio Endrigo, uno dei maggiori cantautori italiani di tutti i tempi, anche se oggi sono in pochi a ricordarsi di lui. Il patrimonio di credibilità, successo, fama che Endrigo si trova ad accumulare oggi forse ci sfugge, e non parliamo solo di vendite, commenta Enzo Gentile in un libro dedicato a grandi artisti italiani che, come Endrigo, sono stati destinati all'oblio. Uno dei momenti più alti del suo tocco, così pulito e fermo fin dagli inizi, viene da una canzone del 1962, Aria di neve, il lato B del 45 giri La periferia. Sopra le nuvole c'è sereno, ma il nostro amore non appartiene al cielo. Aria di neve la introduce un pianoforte dalla tensione classicheggiante e si distende poi tra versi che così inquadrerà l'autore. Il linguaggio usato in questa canzone era diverso rispetto a quello usato dai parolieri di allora. Questo forse era dovuto al mio carattere austro-ungarico, che è diverso dal modo latino di affrontare certe faccende d'amore. Il profilo di quel cantante confidenziale, capace di accompagnare il paese con uno stile bello e nitido, che esclude ogni tipo di volgarità e iperbole, è alto e significativo. Poesia, ad esempio, non è soltanto un modo di dire. Già nel 62 si segnala per un primo intervento notevole con Il soldato di Napoleone, testo di Pierpaolo Pasolini, tradotto dal friulano e contenuto nella raccolta La meglio gioventù. Addio, addio casa Arsa, vado via per il mondo, lascio il padre e la madre, vado via con Napoleone. Addio vecchio paese, addio giovani amici, Napoleone chiama La meglio gioventù. L'idea di un incontro tra canzonetta e componimenti poetici è del patron della RCA Ennio Melis, che vede in Endrigo un giusto testimone, una cerniera per mettere in un disco testi centrati sui giovani e una società in rapida mutazione. Invece di cavalcare la più comoda onda leggera, Endrigo si mostrerà sensibile e coinvolto in questo connubio, imparando presto sulla sua pelle quanto sconveniente sia esporsi in una dinamica più culturale e non solo di entertainment. All'inizio, racconterà, cantavo soprattutto canzoni americane, per poi interessarmi a quelle francesi, del primo Becot, del primo Aznavour. Quindi mi sono appassionato a Jacques Brel, che incontrai nel 1964 alla RCA. Volevano farlo cantare in italiano, ma non se ne fece nulla. Quando l'ho conosciuto, gli dissi che senza aver ascoltato le sue canzoni non avrei mai potuto scrivere Viva Maddalena. Rimasi molto addolorato quando se ne andò, colpito dal solito brutto male. Purtroppo siamo nelle mani del caso. È la censura a occuparsi di lui quando nel 66, invitato da Umberto Simonetta per cantare alla Rai, la speciale commissione di controllo lo invita a purgare il pezzo di alcuni versi considerati disgustosi. Endrigo e Pasolini risponderanno orgogliosamente, coraggiosamente, di no. Non sarà l'ultima volta. Sempre in quell'anno, in anticipo su contestazioni e fervori studenteschi, Endrigo viene bloccato per La ballata dell'ex, una canzone uscita dalla penna acuminata di Sergio Bardotti, nata dalle letture di Calvino, Pratolini, il Cassola de La ragazza di Bube, dove si esprime l'amarezza di quanti avevano creduto nella grande rivoluzione che doveva avvenire nel dopoguerra. sarà censurata direttamente dall'intervento della Presidenza del Consiglio, quanto diverse da oggi erano le occupazioni fuori dallo stretto dettato istituzionale, che trovò intollerabile un passaggio del testo e certi riferimenti inequivoci. Se il tempo è galantuomo, io son figlio di nessuno. 20 anni son passati e il nemico è sempre là, ma i tuoi compagni ormai non ci son più. Sono tutti al ministero all'aldilà. Ma sarà soprattutto il rapporto con alcuni grandi poeti ad alimentare la vena di Endrigo e a contagiarne irreparabilmente la carriera. La splendida Girotondo intorno al mondo è una traduzione da Paul Faure. La rosa bianca è ricavata da José Martí e la colomba da Raffaele Alberti. E se tutta la gente si desse la mano, se il mondo veramente si desse una mano, allora si farebbe un giro tondo intorno al mondo, intorno al mondo. Anche in Italia il canale con la poesia resta aperto con esiti esemplari. Nel canzoniere di Endrigo figurano collaborazioni strette con Ignazio Buttitta, Biagio Marin, Giuseppe Ungaretti e soprattutto Gianni Rodari, in un sodalizio prezioso almeno quanto quello con i brasiliani. Vinicius de Moraes, che scriverà per lui lo squisito Samba para Endrigo, Tom Jobim, Toquinho, che lo porteranno a guardare quel paese come una sorta di terra promessa, una seconda patria, il luogo ideale dove poter approdare. Arrepio de ver tanta coisa linda solta no ar. Eu que vim do frio, me delicio a ponto de ter vontade de não voltar. Sergio Bardotti, che con lui ha firmato Ciao Poeta per l'amico Vinicius de Moraes, di Endrigo teneva a precisare: aveva un'estrema generosità professionale, un grandissimo signore, ma molto rigoroso e amico delle cause perse, che faceva diventare vincenti. Se non c'era Sergio, che aveva vinto Sanremo, a dire «Vinicius lo amo come autore, faccio io da garante e te le canto io le sue canzoni», Vinicius de Moraes in Italia non ci sarebbe mai stato. Già, il Brasile, Bahia, un progetto, un desiderio, un obiettivo. Primo in assoluto a vivere il successo all'estero anche come una possibile simbiosi umana ed esistenziale, con il Brasile respirato ed evocato in tante canzoni, e in un album cantato tutto in quella lingua, esclusivamente Brasil, il coronamento di un sogno, Endrigo merita di essere visto pure tramite sfaccettature diverse e forse impronosticabili, voce per tante forme d'amore, appassionate e anguste, romantiche e totalizzanti. È un artista capace di affrontare la cronaca, la denuncia sociale, con sconfinamenti politici non di secondo piano, anche se certo rimasti ai margini della produzione più conosciuta. Era mezzogiorno in piena notte e gli uomini di buona volontà tutti si guardarono negli occhi, poi ognuno andò per la sua strada. È troppo tardi per partire, troppo tardi per morire, siamo troppo grassi comandante, addio, addio, chi mai ti scorderà, addio. Anch'io ti ricorderò del 1968 è dedicata a Ernesto Che Guevara e alle sue ultime ore, mentre La guerra, di 5 anni prima, compresa in un LP che si aggiudica il premio della critica discografica, è un atto d'accusa limpido, di estremo rigore morale. Io sono contro la guerra, ma la guerra contro Hitler mi sembra fosse più che legittima. Ricordo l'enciclica di Paolo VI, Populorum Progressio, che diceva come non si possano condannare quelli che sono tormentati, soffrono e si ribellano. Certe rivolte possono essere utili a superare problemi di sottomissione. Il tema della guerra, letto sempre nell'ottica del pacifista lucido, senza se e senza ma, lo rintracciamo, tra le altre, anche in «Perché non dormi, fratello?» del 1967, «Prima della bomba» dell'86 e «Stazioni» dell'88. E ancora, nel 68 fa sua «Camminando e cantando», versione in italiano di una canzone inno brasiliana, bandiera del movimento degli studenti che si opponevano alla dittatura militare. «Dall'America» del 1970 è il ringraziamento all'opera di Bob Dylan e John Baez, che con la chitarra a tracolla lottano per un mondo migliore, mentre «Altre primavere» del 77 è la versione di una poesia del capofila della Beat Generation, Lawrence Ferlinghetti, punta di un iceberg rimasto sommerso. Un progetto mai pubblicato che Endrigo aveva iniziato traducendo componimenti di corso, Whitman, Dickinson, Ginsberg e altri. Sapeva guardare lontano, Sergio. Ce lo rammentano altre due canzoni, L'Orlando e Tango Rosso, rispettivamente del 70 e del 90. La prima suona come una premonizione, un amaro vaticinio centrato sulla visione dell'Islam da un punto d'osservazione occidentale e un'apertura che non ammette ambiguità, in anticipo sulle intolleranze dei nostri giorni. Ancora più istruttiva la seconda, per lui, uomo di sinistra non paludato, che partecipava alle veglie per il Vietnam e ricordava con fierezza la sua amicizia con Cuba, e di quella volta, la prima in cui si esibiva a L'Avana nel 64, quando per ascoltarlo era arrivato pure il Che. Mi invitarono molte volte a Cuba, senza darmi un dollaro, ma con un'ospitalità da ambasciatore. Per la Revolución si fa questo ed altro. Tango Rosso è invece una ballata che entra a piedi uniti nel dibattito apertosi tra comunisti e post-comunisti, appena dopo la caduta del muro di Berlino. Endrigo canta la crisi del PCI in quello che sarà il suo ultimo 45 giri, accompagnato alla voce da Max Manfredi, cantautore emergente e fresco reduce della vittoria al premio Recanati. Smarrita l'utopia di un mondo diverso, per un'idea strozzata dalla burocrazia, nella condizione spiazzante della disillusione, appare esaustiva l'ultima strofa. E adesso cosa fare? E adesso dove andare? Non ci resta che Batman. È un tango da cantare. Non c'è più il PC. Non c'è più il PC. Chi l'avrebbe mai detto? Endrigo, cantore politicizzato, tutt'altro che estraneo alla temperie ideologica e di cui troviamo segno pure in altre pagine. Se il primo maggio a Mosca, che importa, bassi fondali, anche se non ho mai letto né Marx né Engels e neppure Gramsci, io votavo per il PCI, in contrapposizione a un governo, a una società perbenista, bacchettona e, perché no, clericale. Ho sempre votato per la sinistra, quella vera o almeno quella che credevo tale. Sono per la giustizia, contro la violenza. E penso che tutti, all'inizio, dovrebbero avere le stesse possibilità. Questa sarebbe una vera democrazia. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine del libro di Enzo Gentile, Lontani dagli occhi, vita, sorte e miracoli di artisti esemplari. Laurana Editore, 190 pagine, 13 euro.